Capitolo 18. Dopo questa conversazione passarono alcune settimane prima che la questione dell'incarico di cappellano acquistasse una qualsiasi importanza pratica per Lydgate e senza confessarne il motivo non volle decidere in precedenza a quale parte avrebbe dato il voto. In realtà sarebbe stato totalmente indifferente alla cosa, vale a dire si sarebbe schierato dalla parte più conveniente, avrebbe dato il proprio voto per la nomina di Tyke senza la minima esitazione. Se Mr. Fairbrother non gli fosse stato personalmente a cuore. Ma la sua simpatia verso il parroco di St. Botolph crebbe man mano che approfondì la sua conoscenza. Il fatto che, mettendosi nei panni di Lydgate, in quanto nuovo arrivato che aveva i propri scopi professionali da difendere, Mr. Fairbrother si fosse dato da fare più per allontanare il suo interesse che per accattivarselo, era segno di una delicatezza e di una generosità inconsuete di cui per natura Lydgate era profondamente conscio. Ciò si accompagnava ad altri tratti del comportamento di Mr. Fairbrother, che erano di una nobiltà eccezionale e facevano somigliare il suo carattere a quei paesaggi meridionali che sembrano un misto di grandiosità naturale e di trascuratezza sociale. Ben pochi avrebbero dovuto mostrarsi affettuosi e cortesi come lui con la madre, la zia e la sorella, la cui dipendenza economica da lui sotto molti aspetti gli aveva reso la vita piuttosto difficile. Pochi uomini che avvertono il peso opprimente delle piccole necessità sono così nobilmente decisi a non mascherare i loro desideri inevitabilmente egoistici con il pretesto di motivazioni migliori. Sotto questo aspetto era consapevole che la sua vita avrebbe retto all'esame più attento e forse questa consapevolezza fomentava un po' di disprezzo per il rigore critico di persone la cui intimità col cielo non sembrava migliorare il loro comportamento domestico e i cui fini elevati non servivano per spiegare le loro azioni. E poi la sua predicazione era ingegnosa e vigorosa, come la predicazione della Chiesa inglese nel suo periodo fiorente. I suoi sermoni venivano pronunciati senza bisogno di alcun libro. Venivano ad ascoltarlo da fuori della sua parrocchia e poiché riempire la chiesa costituiva sempre la parte più difficile del compito di un prete, ecco un altro motivo per uno spontaneo senso di superiorità. Inoltre era un uomo simpatico, dolce, di spirito pronto, franco, senza ghigni di amarezza soffocata o altri aromi con cui condire la conversazione che fanno di metà di noi un tormento per i nostri amici. Lydgate gli voleva bene di cuore, desiderava la sua amicizia. Con questo pensiero predominante continuava a eludere la questione dell'incarico di cappellano e a persuadersi che non solo non era affar suo, ma molto probabilmente non l'avrebbero mai tormentato chiedendogli di votare. Lydgate, su richiesta di Mr. Bulstrode, stava stendendo i piani per l'ordinamento interno del nuovo ospedale e i due si consultavano spesso. Il banchiere partiva sempre dal presupposto di poter contare in generale su Lydgate come collaboratore, ma non fece alcuna particolare allusione alla prossima scelta fra Tyke e Fairbrother. Quando il consiglio di amministrazione dell'ospedale si fu riunito, tuttavia, e Lydgate fu informato che la questione del cappellano era demandata a un consiglio dei direttori e dei medici che si sarebbe riunito il venerdì successivo, si rese conto con irritazione che doveva prendere una posizione su questa banale faccenda di Middle March. Non poté fare a meno di udire dentro di sé l'affermazione distinta che Bulstrode era il primo ministro e che l'affare Tyke era per lui questione di incarico o non incarico, e non poté fare a meno di provare un dispiacere ugualmente pronunciato di fronte alla prospettiva di dover rinunciare a quell'incarico. Infatti le sue osservazioni gli davano costantemente la conferma dell'assicurazione di Mr. Fairbrother che il banchiere non sarebbe passato sopra un'opposizione. Al diavolo le loro meschine mene politiche. Fu uno dei suoi pensieri per 3 mattine, mentre si radeva con aria meditabonda, quando aveva cominciato a rendersi conto che doveva veramente proporre questo problema al tribunale della propria coscienza. Certo, si potevano sostenere motivi validi contro l'elezione di Mr. Fairbrother. Era già impegnato in troppe cose, soprattutto se si considerava quanto tempo dedicava a occupazioni non religiose. E poi di nuovo era una brutta sorpresa che si ripeteva continuamente, che turbava l'apprezzamento di Lydgate, il fatto che il parroco ovviamente giocasse per amore del denaro. Sì, gli piaceva il gioco, ma evidentemente gli piaceva anche lo scopo a cui esso serviva. Mr. Fairbrother sosteneva in teoria che tutti i giochi erano consigliabili e diceva che l'arguzia degli inglesi ristagnava per mancanza di questi, ma Lydgate si sentiva certo che avrebbe giocato molto meno se non fosse stato per i soldi. Al Green Dragon c'era una sala da biliardo, che alcune madri e mogli ansiose consideravano la principale tentazione di Middlemarch. Il parroco era un giocatore di biliardo di primo ordine e, sebbene non frequentasse il Green Dragon, alcuni dicevano che qualche volta ci fosse andato di giorno e avesse vinto dei soldi. E quanto all'incarico di cappellano per sua stessa missione, non gli premeva se non per le 40 sterline. Lydgate non era un puritano, ma il gioco non gli piaceva e vincere soldi al gioco gli era sempre parsa una meschinità. Per di più aveva un ideale di vita che gli rendeva del tutto detestabile asservire la condotta al guadagno di modeste somme. Fino ad allora nella sua vita non aveva avuto alcuna difficoltà a soddisfare i propri bisogni e il suo primo impulso era sempre di essere generoso con le mezze corone, in quanto somme di nessuna importanza per un gentiluomo. Non gli era mai passato per la mente di architettare un piano per procurarsene. Aveva sempre saputo, in modo generico, di non essere ricco, ma non si era mai sentito povero e non era in grado di immaginare quale parte gioca la mancanza di denaro nel determinare le azioni degli uomini. Il denaro per lui non era mai stato determinante, perciò non era disposto a trovare scusanti per questa ricerca deliberata di piccoli guadagni. Ai suoi occhi era del tutto ripugnante e non si mise mai a calcolare il rapporto fra le entrate del parroco e le sue spese più o meno necessarie. Era probabile che non avesse fatto un simile calcolo neppure per sé. E ora, che era giunto il momento di votare, questo fatto ripugnante nacque a Mr. Fairbrother più di quanto era accaduto prima. Uno saprebbe molto meglio cosa fare se il carattere degli uomini fosse più coerente, soprattutto se i propri amici fossero sempre adatti a qualsiasi impegno desiderassero assumersi. Lydgate era convinto che se non ci fosse stata alcuna obiezione valida alla scelta di Mr. Fairbrother, lo avrebbe votato quali che fossero state le opinioni di Bulstrode in merito. Non intendeva essere un vassallo di Bulstrode. D'altro canto, c'era Tyke, un uomo completamente dedito al suo ufficio pastorale, che era semplicemente curato di una cappella annessa alla parrocchia di St. Peter e aveva tempo per mansioni supplementari. Nessuno aveva nulla da ridire su Tyke, tranne che la gente non lo poteva sopportare e lo si sospettava di ipocrisia. Veramente, dal suo punto di vista, Bulstrode era completamente giustificato. Ma da qualunque parte Lydgate cominciasse a propendere, c'era qualcosa che lo faceva indietreggiare e siccome era un uomo orgoglioso, il fatto di essere obbligato a indietreggiare lo esasperava un po'. Non gli andava di deludere i propri intenti più cari guastando i suoi rapporti con Bulstrode, non gli andava di votare contro Fairbrother e di contribuire a privarlo di un incarico e di uno stipendio. Ed ebbe a domandarsi se quelle 40 sterline in più non potessero liberare il parroco dall'ignobile preoccupazione di vincere alle carte. Per di più, Lydgate non gradiva la consapevolezza che votando in favore di Tyke si schierava dalla parte che a lui ovviamente faceva comodo. Ma lo scopo sarebbe veramente stato il proprio vantaggio. Altri avrebbero detto di sì, avrebbero sostenuto che cercava di ingraziarsi Bulstrode al fine di diventare importante e di fare carriera. E con questo? Lui, per parte sua, sapeva che se fossero state in gioco solo le sue prospettive personali, non gli sarebbe importato un fico secco dell'amicizia o dell'avversione del banchiere. Ciò che in realtà gli premeva era un ambiente per il proprio lavoro, un veicolo per le proprie idee. Dopotutto, non era suo dovere procurarsi un buon ospedale dove avrebbe potuto dimostrare i vari tipi specifici di febbre e controllare i risultati terapeutici, piuttosto che qualsiasi altra cosa che avesse a che vedere con questo posto di cappellano. Per la prima volta Lydgate avvertiva l'intrico di ostacolanti costrizioni esercitati da un piccolo ambiente sociale e la sua frustrante complessità. Al termine della sua controversia interiore, quando si incamminò verso l'ospedale, ciò che in realtà sperava era la possibilità che la discussione mettesse il problema sotto una luce diversa e facesse scendere a tal punto il piatto della bilancia da escludere la necessità di una votazione. Penso che confidasse un po' anche nell'energia che è generata dalle circostanze, un qualche sentimento di slancio generoso che rendesse facile la decisione, mentre il dibattito a sangue freddo l'aveva resa solo più difficile. Comunque fosse, non si disse chiaramente per quale parte avrebbe votato e per tutto il tempo provò un risentimento interno per l'obbligo che gli era stato imposto. Un tempo sarebbe parso un ridicolo esempio di logica, errata il fatto che lui con le sue sincere risoluzioni di indipendenza e il suo fine eletto si venisse a trovare proprio all'inizio in preda a meschine alternative, ciascuna delle quali gli ripugnava. Nel suo appartamento di studente, si era prefigurato la propria relazione sociale in modo del tutto diverso. Lydgate si mise in cammino in ritardo, ma il dottor Sprague, gli altri due medici e diversi amministratori erano arrivati in anticipo. Mr. Bulstrode, tesoriere presidente, era uno di quelli ancora assenti. La conversazione sembrava sottintendere che il punto in discussione era problematico e che una maggioranza in favore di Tyke non era così certa come si era in generale supposto. I due medici, incredibile a dirsi, si rivelarono concordi, o meglio, sebbene di opinione diversa, convenivano sulla stessa linea d'azione. Il dottor Sprague, quello severo e corpulento, era come tutti avevano previsto un sostenitore di Mr. Fairbrother. Esisteva qualcosa di più che un semplice sospetto che il dottore non avesse alcuna religione, ma per qualche motivo Middlemarch tollerava questa sua carenza come se fosse stato un lord cancelliere. In effetti è probabile che i pazienti credessero maggiormente nella sua autorità professionale, poiché la connessione antica, quanto il mondo fra intelligenza e cattivi principi, era ancora ben radicata nella mentalità, persino delle pazienti che avevano le idee più rigorose in fatto di gale increspate e di sentimento. Forse era questa mancanza di religione nel dottore che lo faceva definire dai suoi concittadini accorto e caustico. Condizioni strutturali che venivano anch'esse ritenute favorevoli all'accumulo di giudizio in rapporto alla somministrazione delle medicine. Ad ogni modo, è certo che se un qualsiasi medico fosse venuto a Middlemarch accompagnato dalla fama di avere delle concezioni religiose ben definite, di essere incline alla preghiera e di mostrare in altri modi una religiosità attiva, la gente sarebbe stata in generale prevenuta contro la sua abilità medica. Per questo motivo era una fortuna, professionalmente parlando, che le simpatie religiose del dottor Minchin fossero di carattere generico e tale da dare una lontana sanzione medica a ogni credenza seria, sia della Chiesa ufficiale che del dissenso, più che una qualsiasi adesione a dottrine particolari. Se Mr. Bulstrode insisteva, come era portato a fare, sulla dottrina luterana della giustificazione, in quanto era in base a questa che una Chiesa si doveva reggere o cadere, il dottor Minchin a sua volta era del tutto certo che l'uomo non era una semplice macchina, un'unione casuale di atomi. Se Mrs. Wimpole insisteva su una particolare provvidenza per quanto riguardava la sua malattia di stomaco, il dottor Minchin per parte sua amava tenere aperte le finestre della mente e trovava da ridire su dei limiti prefissati. Se il birraio unitario si prendeva gioco del credo atanasiano, il dottor Minchin citava il saggio sull'uomo di Pope. Trovava da eccepire sugli aneddoti dallo stile piuttosto libero a cui si abbandonava il dottor Sprague, preferendo delle citazioni convalidate, e gli piaceva la raffinatezza in ogni campo. Si sapeva in modo generico che era imparentato in qualche modo con un vescovo e talvolta trascorreva le vacanze al palazzo. Il dottor Minchin aveva le mani morbide, una carnagione pallida e un profilo arrotondato, e dall'aspetto non si sarebbe potuto distinguere da un mite prelato. Al contrario, il dottor Sprague era alto fino all'esasperazione. I suoi pantaloni avevano delle borse alle ginocchia e mostravano eccessivamente gli stivali in un periodo in cui le staffe sembravano necessarie per un qualsiasi portamento dignitoso. Lo si sentiva uscire ed entrare, salire e scendere come se fosse venuto ad esaminare il tetto. In breve, aveva influenza e forse ci si sarebbe aspettato che lottasse corpo a corpo con una malattia e la debellasse, mentre il dottor Minchin sarebbe stato più capace di scorgerla in agguato e prenderla in trappola. Godevano all'incirca in egual misura del misterioso privilegio della reputazione di bravi medici e celavano con molto tatto il disprezzo per le reciproche capacità. Considerandosi istituzioni di Middlemarch, erano pronti a unirsi contro tutti gli innovatori e contro i non professionisti portati a interferire con la loro professione. Per questo motivo erano entrambi, in fondo al cuore, ugualmente avversi a Mr. Bulstrode, anche se il dottor Minchin non gli era mai stato ostile in modo palese e non aveva mai dissentito da lui senza dare complicate spiegazioni a Mrs. Bulstrode, la quale trovava che solo il dottor Minchin capiva la sua costituzione. Un profano che ficcava il naso nella condotta professionale dei medici e imponeva sempre le proprie riforme, sebbene arrecasse direttamente minore imbarazzo ai due medici che ai chirurghi farmacisti, che si occupavano dei poveri per contratto, nondimeno urtava la sensibilità dei professionisti in quanto tale, e il dottor Minchin condivideva in pieno il nuovo risentimento contro Bulstrode, suscitato dalla sua evidente determinazione di appoggiare Lydgate. I generici, con una lunga carriera, Mr. Wrench e Mr. Toller, proprio ora se ne stavano in disparte ed erano in colloquio amichevole, concordando sul fatto che Lydgate fosse uno sfrontato, utile solo agli scopi di Bulstrode. Davanti agli amici estranei alla professione, costoro avevano già contribuito a lodare l'altro giovane generico che era giunto in città quando Peacock era andato in pensione senza ulteriori raccomandazioni tranne i propri meriti e un argomento a sostegno di una solida preparazione professionale, quale si poteva dedurre dal fatto che non aveva, a quanto pare, sprecato tempo in altre branche del sapere. Era chiaro che Lydgate, non somministrando direttamente le medicine, intendeva accusare i suoi colleghi e inoltre rendere vaga la differenza fra il suo grado di medico generico e quello dei dottori, i quali, nell'interesse della professione, sentivano la necessità di conservarne le gerarchie, soprattutto contro un uomo che non era andato a nessuna delle due università inglesi e non vi aveva condotto studi anatomici e clinici, ma veniva con la calunniosa pretesa di aver fatto esperienza a Edimburgo e a Parigi, dove l'osservazione poteva essere certo abbondante, ma difficilmente valida. Così avvenne che in questa occasione il Bulstrode venisse identificato con Lydgate e Lydgate con Tyke, e grazie a questa varietà di nomi intercambiabili per la questione del cappellano, menti diverse potevano farsi la stessa idea riguardo ad essa. Il dottor Sprague disse subito al gruppo riunito appena entrarono: «Io sono per Fairbrother. Uno stipendio con tutto il mio cuore. Ma perché toglierlo al parroco? Non guadagna certo troppo. Deve assicurarsi da vivere, oltre a sostenere una casa e a distribuire le elemosine parrocchiali. Mettetegli 40 sterline in tasca e non farete nulla di male. È un brav'uomo, Fairbrother, con quel minimo di aria di parroco che è necessaria per il suo sacerdozio. Oh, dottore, fece il vecchio Mr. Powderell, commerciante di ferramenta in pensione di un certo livello sociale. La sua interazione era qualcosa fra una risata e una disapprovazione parlamentare. Vi dobbiamo lasciare dire la vostra. Quello che dobbiamo considerare non è il reddito di nessuno, sono le anime dei poveri ammalati. A questo punto, la voce e il volto di Mr. Powderell espressero un'emozione sincera. È un vero predicatore del Vangelo, Mr. Tyke. Voterei contro la mia coscienza se votassi contro Mr. Tyke, veramente. Gli avversari di Mr. Tyke non hanno chiesto a nessuno di votare contro la propria coscienza, mi pare, disse Mr. Eckbutt, un ricco conciatore dalla parola facile, i cui occhiali scintillanti e i capelli dritti si volsero con una certa severità verso il povero Mr. Powderell. Ma a mio giudizio è necessario che noi, in veste di amministratori, pensiamo se il nostro unico dovere sia quello di prendere in esame proposte che provengono da un'unica parte. Quale membro della commissione affermerà che avrebbe intrattenuto l'idea di sostituire la persona che ha sempre svolto la funzione di cappellano qui dentro, se questa idea non gli fosse stata suggerita da persone, la cui volontà è di considerare ogni istituzione di questa città un mezzo per realizzare le proprie mire? Non voglio fare il processo ai motivi di nessuno, che rimangono fra lui e un potere più alto. Ma dico seriamente che qui operano influenze incompatibili con una vera indipendenza e che un servilismo strisciante è di solito dettato da circostanze che dei gentiluomini che si comportano in tal modo non si potrebbero permettere di sostenere né moralmente né finanziariamente. Io sono un laico, ma ho rivolto con poca attenzione alle divisioni della Chiesa e... Al diavolo le divisioni, lo interruppe Mr. Frank Haley, avvocato e segretario comunale, il quale si presentava di rado al consiglio, ma ora aveva fatto una breve apparizione, frustino in mano. Non ci dobbiamo occupare di quelle in questa sede. Fairbrother finora ha svolto il lavoro, quello che c'era, senza essere pagato, e se una paga bisogna darla, dovrebbe essere assegnata a lui. Per me è un maledetto intralazzo togliere l'incarico a Fairbrother. Io penso che loro signori farebbero bene a non dare alle loro osservazioni un carattere personale, disse Mr. Plimdale. Io voterò per la nomina di Mr. Tyke, ma non avrei saputo se Mr. Eckbach non vi avesse accennato di essere un leccapiedi servile. Smentisco qualsiasi allusione di carattere personale. Ho detto espressamente che mi è concesso di ripeterlo o magari di concludere ciò che stavo dicendo. Ah, ecco, Minchin, disse Mr. Frank Howley. al che tutti distolsero l'attenzione da Mr. Eckbatt, lasciandolo solo a percepire l'inutilità di possedere doti superiori a Middlemarch. Avanti, dottore, mi devo avere dalla parte giusta, eh? Spero di sì, disse il dottor Minchin, salutando con cenni del capo e stringendo mani qua e là. Anche a danno dei miei sentimenti. Se qui ci deve essere qualche sentimento, dovrebbe essere per l'uomo che è cacciato via, credo, disse Mr. Frank Hawley. Confesso di sentire qualcosa anche per l'altra parte. La mia stima è divisa, disse il signor Minchin, sfregandosi le mani. Considero Mr. Tyke un uomo esemplare, nessuno più di lui, e credo che venga proposto per motivi inattaccabili. Io, per parte mia, vorrei dargli il mio voto. Ma sono costretto a considerare il caso sotto una luce che dà maggiore importanza ai titoli di Mr. Fairbrother. È un uomo amabile, un predicatore capace ed è fra noi da più tempo. Il vecchio Mr. Powder continuò a guardare triste e muto. Mr. Plimdame si mise a posto la cravatta con aria di disagio. Non ci porterete Mr. Fairbrother come un esempio di quello che dovrebbe essere un prete, spero, disse Mr. Lurker, l'eminente corriere che era appena entrato. Non nutro nessun malanimo nei suoi confronti, ma penso che dobbiamo qualcosa alla cittadinanza per non parlare di questioni più elevate in questi incarichi. Secondo me, Fairbrother è troppo lassista per un prete. Non voglio tirare in ballo delle accuse particolari contro di lui, ma qui farà quel poco di assistenza che può. È maledettamente meglio che farne troppa, disse Miss Haley, il cui linguaggio sguaiato era noto in quella parte della contea. I malati non possono sopportare tante preghiere e prediche, quel genere di religione metodista. Fa male allo spirito, fa male qui dentro, eh? Aggiunse volgendosi rapidamente verso i quattro medici che formavano un gruppetto. Ma ogni risposta fu resa superflua dall'ingresso di tre signori, con i quali furono scambiati saluti più o meno cordiali. Costoro erano il reverendo Edward Thesiger, pastore di St. Peter, Mr. Bulstrode e il nostro amico Mr. Brooke di Tipton, che ultimamente si era lasciato mettere nel consiglio di amministrazione anche lui, ma non era mai intervenuto in precedenza. Ora la sua presenza era dovuta all'insistenza di Mr. Bulstrode. Lydgate era l'unica persona ancora attesa. Ognuno si sedette sotto la presidenza di Mr. Bulstrode, che era pallido e riservato come al solito. Mr. Thesiger, un evangelico moderato, si augurò che fosse nominato il suo amico Mr. Tyke, uomo zelante e capace, il quale, officiando in una cappella succursale, non aveva una cura d'anime troppo vasta da non lasciargli ampia disponibilità di tempo per la nuova incombenza. Era desiderabile che incarichi di cappellano di questo genere fossero accolti con fervore di intenzioni, costituivano occasioni particolari per esercitare un'influenza spirituale e mentre era cosa buona che venisse assegnato uno stipendio, si rendeva ancora più necessaria una scrupolosa sorveglianza affinché l'ufficio non venisse distorto in una semplice questione di denaro. Il modo di Mr. Thesiger fu così tranquillo e decoroso che chi aveva da obiettare non poté che ribollire in silenzio. Mr. Brooke credeva che le intenzioni di tutti fossero buone, quanto lui non aveva seguito le faccende dell'ospedale, sebbene fosse vivamente interessato a tutto quanto fosse per il bene di Middlemarch, ed era felicissimo di incontrarsi con i signori presenti per qualsiasi questione di utilità pubblica. Qualsiasi questione di utilità pubblica, capite? Ripeté Mr. Brooke col suo annuire, segno di perfetta comprensione. Sono assai occupato come magistrato nella raccolta di testimonianze documentarie, ma considero il mio tempo a disposizione della cittadinanza e in breve i miei amici mi hanno convinto che un cappellano con uno stipendio, capite? È una cosa molto buona e sono lieto di poter venire qui e votare per la nomina di Mr. Tyke, il quale mi si dice una persona inaccepibile, ineccepibile, apostolica ed eloquente e tutte quelle cose lì. E io sono l'ultimo a rifiutargli il voto, date le circostanze. A me sembra che vi abbiano imbottito la testa mettendovi al corrente solo di una parte del problema, Mr. Brooke, disse Mr. Frank Hawley, che non aveva paura di nessuno ed era un tori sospetto di volersi presentare alle elezioni. Non pare che sappiate che uno degli uomini più degni che abbiamo fa il suo dovere di cappellano qui da anni senza essere pagato e che Mr. Tyke viene proposto per sostituirlo. Chiedo scusa, Mr. Hawley, disse Mr. Bulstrode. Mr. Brooke è stato pienamente informato sulla reputazione e la posizione di Mr. Fairbrother. Dai suoi nemici, intervenne fulmineo Mr. Hawley. Confido che non ci sia alcuna ostilità personale, disse Mr. Thesiger. Però giuro che c'è, ribatté Mr. Hawley. Signori, disse Barstow in tono sommesso. Il merito della questione può venire esposto brevemente. Se qualcuno dei presenti dubita che ogni gentiluomo che sta per dare il proprio voto non sia stato pienamente informato, ora posso ricapitolare gli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione per entrambe le parti. Non ne vedo l'utilità, disse Mister Ali. Suppongo che tutti sappiamo che chi vogliamo votare. Qualsiasi persona che voglia essere giusta non aspetta l'ultimo momento per ascoltare entrambi gli aspetti della questione. Io non ho tempo da perdere e propongo che la cosa sia messa immediatamente ai voti. Seguì una breve ma animatissima discussione prima che ciascuno scrivesse Tyke o Fairbrother su un foglietto di carta e lo infilasse in un bicchiere. Nel frattempo, Bulstrode vide entrare Lydgate. Vedo che i voti sono equamente divisi al momento, disse Mr. Bulstrode con voce chiara e tagliente. Poi alzate gli occhi verso Lydgate. C'è un voto decisivo ancora da dare. È il vostro, Mr. Lydgate. Volete essere così gentile da scrivere? Oramai la cosa è decisa, disse Mr. French alzandosi. Sappiamo tutti come vedrà Mr. Lydgate. Mi sembra che il vostro discorso abbia un senso particolare, signore, disse Lydgate con una certa aria di sfida e tenendo la matita sospesa. Intendo semplicemente dire che ci si aspetta che votiate come Bulstrode. Considerate offensivo questo senso? Può essere offensivo per altri, ma non per questo rinuncerò a votare come lui. E Lydgate immediatamente scrisse Tyke. Così il reverendo Walter Tyke divenne cappellano dell'ospedale e Lydgate continuò a lavorare assieme a Bulstrode. In verità non sapeva se Tyke fosse il candidato più adatto, eppure la coscienza gli diceva che se fosse stato completamente libero da subdoli pregiudizi avrebbe voluto Mr. Fairbrother. La storia dell'incarico di cappellano rimase un punto dolente nel suo ricordo, un caso in cui quel meschino ambiente di Middlemarch era stato troppo forte per lui. Come si poteva essere soddisfatti di una decisione presa fra simili alternative in tali circostanze? Non più di quanto si può essere soddisfatti di un cappellano scelto fra le forme che le risorse dell'epoca offrono, portandolo nel migliore dei casi con una rassegnazione che trova un sostegno soprattutto nel paragone. Ma Mr. Fairbrother lo accolse con la stessa aria amichevole di prima. Il personaggio di pubblicano e peccatore non è sempre incompatibile in pratica con quello del fariseo moderno, perché la maggioranza di noi vede l'imperfezione della nostra condotta malapena più distintamente dell'imperfezione dei nostri argomenti o la vacuità delle nostre battute. Ma il parroco di St. Botolph era certamente sfuggito alla sia pur minima taccia di farisaismo, e a forza di ripetersi di essere troppo simile agli altri, era divenuto eccezionalmente diverso da loro in questo, che poteva scusare gli altri perché lo disprezzavano e poteva giudicare la loro condotta in modo imparziale anche quando recava danno a lui. Il mondo è stato troppo forte per me, lo so, disse un giorno a Lydgate, ma d'altra parte non sono un uomo forte, non sarò mai un uomo famoso. La scelta di Ercole è una bella favola, ma prodigo, ne fa una cosa facile per l'eroe, come se le prime decisioni bastassero. Un'altra storia dice che giunse a reggere la conocchia e infine indossò la camicia di Nesso. Io suppongo che una buona decisione potrebbe tenere un uomo dalla parte giusta se le decisioni di tutti gli altri lo aiutassero. I discorsi del parroco non erano sempre incoraggianti, aveva evitato di essere un fariseo, ma non era sfuggito a quella disistima delle possibilità a cui giungiamo piuttosto frettolosamente in conseguenza di un nostro fallimento. Lydgate pensò che in Mr. Fairbrother ci fosse una miserevole debolezza della volontà.